Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, sono le 17:07, nuovo appuntamento con Focus Economia. Oggi è giovedì, ultima seduta per i mercati, a dir la verità una seduta con il segno meno. Per l'Europa, Parigi cede lo 0,97%, Francoforte, che ha chiuso poco dopo l'ora di pranzo, ha ceduto l'1,16%, a Milano il FTSE All Share l'1,13%, il FTSE MIB l'1,23%. Per quanto riguarda l'America, il Dow Jones cede uno 0,08%, il Nasdaq lo 0,24%. Velocemente sul listino principale, a Piazza Affari pochissimi titoli che stanno chiudendo in territorio positivo. Il migliore è Fiat, più 3% circa in questo istante, STM più 0,9%, Finmeccanica più 0,89%, Exor guadagna uno 0,37%, Enel Green Power uno 0,13%. Per il resto solo segni meno e quindi tutto il resto del listino in rosso. Il peggior titolo è Italcementi, che cede il 2,91%, Fognari Assai meno 2,48%, Telecom Italia meno 2,37%, Intesa San Paolo meno 2,29%, sotto pressione in realtà tutti i finanziari in questa ultima dell'anno. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,3279 per la precisione in questo momento sul dollaro. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di mercati, cerchiamo di fare un bilancio di questo anno non proprio positivo per Piazza Affari e magari anche una battuta sul decennio, visto che si chiudono i primi 10 anni di questo 2000, e poi parleremo di materie prime. Anche l'andamento delle materie prime in questo anno è stato piuttosto particolare, così come anche nel decennio. Parleremo ancora di Pomigliano, perché ci sono state numerose reazioni politiche all'indomani della firma del contratto per lo stabilimento Fiat di Pomigliano, e poi parleremo anche di Fincantieri, che ha portato a casa una commessa molto importante da parte degli Stati Uniti. Ne parleremo con l'amministratore delegato. 349-238-6666 per i vostri SMS. Adesso tutte le nostre notizie in breve. Come sempre partiamo dal petrolio, apertura in calo a New York, meno 0,7%, a $90,51 al barile. Oro in rialzo invece sui mercati asiatici, il metallo prezioso passa di mano a $1,414,10 l'oncia, in progresso di uno 0,2%, in rialzo anche l'argento, che aggiorna il record degli ultimi 30 anni, arrivando a quota $30,72 l'oncia, più 0,4%, il prezzo più alto dal marzo del 1980. Nuovi record storici per il rame a Londra e New York. Sul mercato londinese il metallo è salito a $9,510 a tonnellata, più 1,2%, ritoccando il record di ieri di $9,447. Continua l'ascesa del franco svizzero sui mercati internazionali, toccando nuovi massimi storici sia contro l'euro che contro il dollaro. Nei confronti della moneta unica, la valuta elvetica sale a 1,2402, mentre balza a 0,93 contro il biglietto verde. Economia internazionale, la ripresa economica a due velocità, questo è quanto succederà nel 2011, con una crescita debole nelle economie avanzate, appena sufficiente a ridurre la disoccupazione, e le economie emergenti alle prese con le sfide poste dal successo, incluso come evitare un surriscaldamento della loro economia e gestire i flussi di capitale. Questo è quanto ha affermato il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard. Ancora, non c'è alcun dubbio che diversi paesi in Europa si troveranno ad affrontare lunghi e difficili aggiustamenti macroeconomici. Ancora parole del capo economista del Fondo Monetario, Olivier Blanchard. Negli Stati Uniti le richieste di sussidio di disoccupazione la scorsa settimana sono scese di 34.000 unità a 388.000 unità, dalle 422.000 della settimana precedente. Il dato è migliore delle attese degli analisti. l'indice dei responsabili per gli acquisti del distretto di Chicago, indicatore dell'andamento del comparto manifatturiero statunitense, in dicembre è salito a 68,6 dopo il 62,5 di novembre. Si tratta del livello più elevato dal luglio del 1988. E veniamo in Europa. L'economia della Spagna registra una leggera crescita e nel corso del 2010 non ha segnato trimestri negativi. Questo è quanto ha affermato il primo ministro José Luis Rodríguez Zapatero durante una conferenza stampa a Madrid. E ancora, la Spagna nel 2011 aumenterà il salario minimo dell'1,3%, questo è quanto ha detto Zapatero. Con il salario minimo, aggiunto il Premier, verranno aumentate dell'1,3% anche le pensioni. Nonostante questi aumenti, Zapatero ha ribadito che il governo riuscirà a mantenere l'impegno di ridurre il deficit di bilancio quest'anno e il prossimo anno. In Italia, buona la domanda per i titoli di Stato italiani collocati oggi, ma sono in rialzo i rendimenti rispetto all'ultima asta di novembre. Il Tesoro ha collocato 3 miliardi di euro di BTP con scadenza nel 2021, con un rendimento medio del 4,8%, in rialzo rispetto al 4,4% dell'asta del 29 novembre. Ha inoltre piazzato 836 milioni di euro in CCTEU, offrendo un interesse del 2,8% contro l'1,7%. 88% dell'asta precedente. Ancora parliamo di titoli di Stato. Viaggia sopra i 180 punti lo spread tra BTP decennali e Bund tedesco dopo l'asta di oggi, che ha visto aumentare, lo abbiamo già detto, i rendimenti dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi si allarga a 186 punti, 24 punti sotto il record storico toccato lo scorso 30 novembre. Veniamo ai dati Istat. I prezzi alla produzione dei prodotti industriali a novembre sono aumentati del 4% rispetto allo stesso mese del 2009 e dello 0,4% rispetto ad ottobre. Questo è quanto ha comunicato l'ufficio di statistica. Ancora, le retribuzioni lorde per ora lavorata a ottobre nel totale delle grandi imprese sono cresciute del 3% rispetto allo stesso mese del 2009, mentre sono scese dello 0,3% rispetto a settembre. Per quanto riguarda l'occupazione, nelle grandi imprese a ottobre è calata dell'1,6% al lordo della cassa integrazione rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e dello 0,1% rispetto a settembre. Lo comunica appunto l'Istat, precisando che al netto della cassa integrazione la diminuzione è stata di un punto percentuale. Orizzonte più sereno per le imprese italiane alla vigilia del 2011. Quasi il 60% degli operatori dell'industria e dei servizi prevede infatti che i segnali di ripresa registrati quest'anno si consolideranno nei prossimi 12 mesi e il 24% ritiene che lo scenario economico migliorerà ulteriormente. Questo è quanto emerge in sintesi dalla ricerca realizzata per l'Italia da Unioncamere su un campione di circa 70.000 imprese dell'industria e dei servizi localizzate in 95 regioni europee. Fincantieri, e poi ne parleremo ancora nel corso della nostra trasmissione. In partnership con Lockheed Martin, numero uno al mondo nel settore della difesa, si è aggiudicata un contratto per la costruzione di 10 navi Littoral Combat Ship. Il valore della prima unità è di 437 milioni di dollari. Le successive 9 navi saranno acquistate dalla Marina americana attraverso opzioni che saranno esercitate entro il 2015, facendo così salire il valore complessivo del contratto a oltre 4 miliardi di dollari. Da gennaio saranno oltre 20 milioni le famiglie italiane che riceveranno la bolletta calcolata con i nuovi prezzi biorari, meno convenienti nei giorni lavorativi dalle 8 alle 19, più convenienti in tutte le altre ore, in tutti i fine settimana e festivi. Questo è quanto ricorda l'autorità per l'energia, annunciando che entro la fine del prossimo anno il nuovo sistema, che è automatico e non richiede nuovi contratti, sarà applicato a tutti i consumatori che hanno un contratto di fornitura alle condizioni stabilite dall'autorità e dotati di un contatore elettronico intelligente che può leggere i consumi nei diversi momenti. Questa era la nostra ultima notizia in breve. Adesso invece affrontiamo il primo grande tema di oggi: i mercati, che cosa hanno fatto quest'anno e una parola anche nell'ultimo decennio. E con chi affrontiamo l'argomento? Con il collega del Sole 24 Ore, Walter Riolfi, che è qui con me in studio, ci ha raggiunto. Buonasera Walter. Buonasera a tutti. Allora, partiamo, vabbè, non tanto dalla giornata di oggi che si chiude con il segno meno, ma vabbè, quello sarebbe il meno. In realtà non è stato proprio un anno, come dire, brillante per Piazza Affari soprattutto. Sì, per la borsa italiana, forse anche per quella spagnola, per quella greca, però in genere per il resto del mondo, diciamo per gli Stati Uniti e per le maggiori borse europee è stato comunque un anno positivo, un anno con guadagni diciamo attorno al 10%, ed è un bel risultato quando si pensa che solo 4 mesi fa gli indici erano pesantemente in rosso in tutto il mondo. Se non fosse arrivata la Fed, Ben Bernanke, a dire che avrebbe inondato i mercati di liquidità e quindi dando così un impulso più che alla borsa in sé, diciamo alla psicologia degli investitori, a mettere un po' di ottimismo, e le borse avrebbero potuto chiudere in maniera negativa. In realtà l'America, date le premesse, può essere ben felice di quest'anno e anche, diciamo, e anche le altre, le maggiori borse europee. Sì, l'Italia è un altro problema. Ecco, infatti, diamo alcune percentuali così ci facciamo un'idea. Il Dow Jones chiude questo 2010 con un progresso del 9%, il Nasdaq del 17%, Londra più 10%, molto bene Francoforte più 16%, Parigi un meno 1%, ma insomma ci può anche stare. Milano meno 12%. Meno 12. E poi tra l'altro abbiamo calcolato il decennio di Milano. In un decennio Milano perde il 55 più o meno per cento. Sì, ti dico esattamente il 53,17%. Aggiungiamo quello che perde oggi. Facciamo cifra tonda. Ed è comunque una delle peggiori borse al mondo. Perché Milano perché? È così perché? Debole? Un po' riguarda la composizione del paniere del nostro indice, dove 60 forse più per cento dei titoli sono banche e assicurazioni, e banche e assicurazioni hanno fatto male un po' dappertutto, e questo spiega una parte. La seconda parte è che le banche e le assicurazioni italiane hanno perso più di quelle tedesche, di quelle francesi, di quelle inglesi. Questo è un altro caso, voglio dire, in fondo hanno retto, ci hanno raccontato che hanno retto meglio alla crisi, però sui mercati hanno retto peggio. Hanno retto peggio perché si presume che le banche italiane abbiano più in portafoglio più titoli italiani. E, per esempio, oggi è salito anche oggi lo spread, la differenza di rendimento tra il BTP e il Bund è arrivato a sfiorare 190, e tra l'altro con un'accelerazione negli ultimi 3-4 sedute un po' preoccupante. Quindi sull'Italia ha pesato il rischio paese. Poi probabilmente i pochi titoli industriali che abbiamo noi in Italia, su questi pesa anche una ripresa economica che nel nostro paese è estremamente debole, diciamo, per tanto nulla, per usare un eufemismo, mentre in Germania la ripresa economica è ben più sensibile, trascinata dall'export, no? Walter, ti interrompo solo un attimo perché abbiamo messo a punto una scheda con la quale riepiloghiamo un po' di dati, diamo un po' un affresco di quello che è successo quest'anno. Sentiamo. Nonostante tutto, il 2010 è stato un anno più che soddisfacente per chi ha investito in borsa. Poche le eccezioni, tra cui purtroppo spicca Piazza Affari. A Wall Street il Dow Jones si avvia a chiudere l'anno con un rialzo nei 12 mesi vicino al 10%, meglio ancora per il Nasdaq, in crescita del 17%. Guadagni che per gli investitori europei sono però in parte ridimensionati dall'indebolimento dell'8% del dollaro nei confronti dell'euro. Il 2010 è stato complessivamente positivo anche per le borse asiatiche, Filippine e Corea in testa. La piazza di Hong Kong si ferma ad un più 5%, male Tokyo meno 3% e soprattutto Shanghai in calo del 16%. Ha di che festeggiare chi è andato a cercare guadagni in America Latina e in particolare in Cile o in Argentina. La borsa di Buenos Aires chiude il 2010 con un rialzo di oltre il 50%, quella di Santiago porta a casa un rialzo del 45%. Nel vecchio continente la performance migliore è quella di Francoforte. Chi avesse investito sul listino tedesco 1000 euro a inizio anno si troverebbe in tasca circa 160 euro in più. Bene anche Londra, più 10%, delude Parigi in flessione dell'1%, ma soprattutto Milano, che nei 12 mesi ha perso il 12% del suo valore. A Piazza Affari l'anno si chiude in pareggio solo per quanto riguarda ingressi ed uscite sul listino. 10 gli addii e altrettante le matricole, tra cui spicca Enel Green Power, il maggior collocamento effettuato in Europa dal 2007. Anche quest'anno i veri affari si sono fatti con le materie prime, non tanto petrolio ed oro, che comunque sono cresciuti rispettivamente del 23 e del 27%, quanto con l'argento. Le sue quotazioni sono infatti salite in un anno di ben il 70%, guadagni addirittura superiori e vicini al 90% poi per chi avesse investito nel meno noto palladio. Con la seduta di oggi va in archivio non solo il 2010, ma tutta la prima decade del nuovo millennio. Per le azioni il bilancio decennale non è complessivamente positivo. Per la prima volta dal dopoguerra, l'indice Standard & Poor's 500 di New York chiuderà una decade in rosso con un meno 4,7%. In negativo anche Londra, Tokyo e di nuovo Milano, che chiude il periodo 2000-2010 in calo addirittura del 53%. In positivo invece Nasdaq, Francoforte e in generale i mercati emergenti. E infine proprio il caso di dire che è stato un decennio d'oro per chi ha scelto questo metallo prezioso. Un investimento di 1000 euro effettuato nel 2000 varrebbe infatti oggi ben 5170 euro. Walter, a sentire questi numeri quasi quasi meglio il mattone. Anzi, non quasi quasi, meglio il mattone. È stato meglio il mattone, esatto. Non lo so come sarà in futuro. Beh, negli Stati Uniti gli ultimi dati degli ultimi 2-3 mesi relativi al mercato immobiliare indicano ancora una nuova flessione, quindi proprio siamo sui minimi, sul fondo, ma assolutamente il mercato non sta ripartendo né come attività né come prezzi delle abitazioni. In Europa il panorama è un po' più variegato, però in futuro io non è il mio settore, non so cosa succederà. No, certo, era per dire che comunque insomma non è stato un decennio d'oro per chi ha scelto l'azionario. No, alla faccia di chi dice lungo investimento. La prima volta, insomma, non so dopo quanti anni, almeno noi l'abbiamo calcolato dal dopoguerra in poi, ma anche perché lo Standard & Poor's parte allora, però sicuramente penso che rare volte, anche considerando l'Ottocento, un decennio sia stato così negativo. Brutto. Ma ci sono delle spiegazioni. Le borse emergenti nel decennio hanno fatto, mi pare, 141%. E le borse invece dei paesi sviluppati, New York o le borse europee, sono tutte negative, no? Milano un disastro. E il motivo c'è, abbiamo avuto due grandi bolle, ma che non sono venute a caso, né la bolla sui titoli internet del 2000, né la bolla sulla liquidità del fine 2007-2009, eccetera. Se guardiamo bene, il mondo occidentale ha giocato la carta della finanza fin dagli anni Ottanta e ha cominciato a esasperare la finanza nella seconda metà degli anni Novanta, quando si celebrava le virtù della leva finanziaria, no? Indebitarsi è bello, perché indebitarsi fa utili nel bilancio ovviamente delle banche che prestano soldi, nel bilancio delle società che impiegano quindi meno capitale, eccetera. Solo che si arriva a un certo punto in cui i debiti pesano e vanno rimborsati, basta una piccola crisi e succede quello che è successo qualche anno fa. Poi tornerò su questa cosa perché volevo farti una domanda. Per quanto riguarda Milano, però, questa alleanza con Londra non sembra aver portato poi dei benefici. In termini di valore dei titoli, ma direi che il fatto con la borsa sia del tutto, che la proprietà della borsa sia passata a altri soggetti è del tutto ininfluente sulle valutazioni dei titoli. Quindi, e si vede anche dai numeri, proprio del tutto, completamente ininfluente. Ininfluente, quindi l'unico problema riguarda la società che gestisce la borsa, però le valutazioni vanno in altra direzione, le determinano gli investitori indipendentemente dal canale di borsa in cui trattano le azioni. C'è secondo te un problema di poca trasparenza per quanto riguarda Milano? Qualche osservatore diceva forse rispetto ad altri mercati Milano è meno trasparente, non attira... Non penso che sia un problema di trasparenza, può darsi che ci sia in qualche società, ma non è un problema di trasparenza, il problema riguarda un po' il paese, se si vuole, quindi non tanto la borsa, non tanto il listino, è un paese che... È quello che è cresciuto meno di tutti in Europa anche nel decennio, no? E anche quando le cose andavano bene si cresceva dell'1 o dello 0%, poi quando le cose sono andate male siamo scesi anche noi più o meno come gli altri, quindi comunque nel decennio noi siamo quelli che sono cresciuti meno. La Spagna è cresciuta tantissimo, poi ha perso tantissimo, sì. E è un problema dell'economia del paese che è rimasta legata a un'industria manifatturiera che ormai diventa più conveniente in altri paesi d'Europa. Da noi manca la ricerca, manca la tecnologia, la finanza. In Inghilterra la finanza è sviluppata, da noi anzi rischiamo anche di perdere dei pezzi di finanza come l'asset manager nelle gestioni dei fondi del risparmio gestito, che rischiano magari di passare ai francesi o agli inglesi, quelle poche che sono rimaste in Italia. Quindi questo paese qui deve trovare delle attività produttive più consone per un paese sviluppato. L'Italia non l'ha ancora trovato, ma ci dovrà pensare. E poi l'Italia dovrebbe attirare capitali dall'estero, ma anche questo non è un problema, perché in Italia la corruzione è alta e soprattutto in molte parti d'Italia c'è una criminalità organizzata che sicuramente scoraggia qualsiasi investimento straniero. Anche quelli stessi italiani, figuriamoci quelli stranieri, sì. Per cui ovviamente noi non abbiamo la palla di vetro, non sappiamo che cosa succederà, però secondo te che cosa è lecito aspettarsi per l'anno prossimo? Visto che voltiamo, no? Cominciamo un altro decennio. Partiamo, vediamo. Negli Stati Uniti si aspettano grandi cose, negli Stati Uniti, l'euforia, diciamo ottimismo, è piuttosto alto in questo momento. Si aspettano crescite del prodotto interno lordo attorno al 4%, quando solo qualche mese fa dicevano se arriviamo al 2-2,5% va bene. Però intendiamo che queste anche i pronostici che fanno gli economisti, c'è una buona dose di psicologia, non solo di calcoli o di modelli matematici. Quindi in ogni caso l'economia americana dovrebbe riprendere. Dubito che possa arrivare ai ritmi che avevamo nel 2005-2006, perché allora era drogata dalla liquidità e dai debiti, no? Quando si fa debito poi si spendono, certo, i soldi, si crea ricchezza, quando invece i soldi si devono ripagare si contraggono le attività, ovviamente, no? L'Italia lo sa bene, è cresciuta nel 80 quando i nostri governi facevano un mucchio di debiti, facevano crescere il debito pubblico. E poi ci ritroviamo questo bel regalo del debito pubblico adesso. Insomma, adesso in questi anni. Ecco, e di conseguenza dovrebbe andare anche bene la borsa americana. Anche in Europa le cose dovrebbero andare benino, però l'Europa è più sfaccettata, Germania probabilmente bene, forse l'Inghilterra, ma forse anche la stessa Italia. Per quanto riguarda l'Europa pesa il problema dei debiti sovrani. Verranno salvati i paesi in difficoltà tipo la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda? Probabilmente sì. Però le tensioni rimarranno. Resta. E tra l'altro quei giorni segnalavo lo spread, no? Il differenziale di rendimento del BTP è salito sui 190, che è una cosa abbastanza pericolosa, e poi non è del tutto chiaro, perché tra l'altro nelle ultime tre sedute è stata l'Italia che è salita più degli altri paesi, no? Però il problema dei debiti sovrani è un problema non solo dei paesi europei. Gli Stati Uniti forse sono in una situazione peggiore. Diciamo che la psicologia americana in questo momento ha spostato il problema, sì. Non vuole pensare, ma questo problema qui un prima o poi si riproporrà anche per gli stessi Stati Uniti, quindi non è una cosa solo nostra. No, no, certamente, però forse qui fa più, come posso dire, più scena, più impressione, perché poi l'Europa, non essendo veramente unita, forse non dà quella parvenza di sicurezza che gli Stati Uniti invece danno. Sì, la Fed fare iniezioni di ottimismo, dice cioè, può stampare moneta virtuale o di fatto e quindi può immettere liquidità e, può e poi l'altra cosa, può svalutare la valuta, no? Di fatto come sì. Ha fatto con il quantitative easing, con il programma di riacquisto di titoli di Stato, no? Ma Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda e non so, anche la stessa Italia, per guadagnare competitività non possono svalutare la valuta. No, direi di no. Anzi, in questo momento gli investitori percepiscono l'euro come la valuta della Germania e dei paesi attorno alla Germania e non come la valuta dei paesi periferici. Certo. L'ultima battuta, che era per riprendere una tua risposta di prima, si è usata molto la leva finanziaria, un po' come se fosse l'unica carta per rispondere alla crescita dei paesi emergenti. Ma questa è un'ipotesi, cioè nel momento in cui le borse, i mercati si sono rese conto che parecchie attività industriali stavano finendo e sarebbero finite verso i paesi emergenti, c'era il modo di aumentare la redditività, no? il ritorno per l'azionista, shareholder value degli anni 90 e poi anche dell'inizio di questo 2000. Che è una che voleva dire incrementare a tutti i costi questi ritorni drogandoli, sì. Proprio con la leva finanziaria, cioè con i debiti, facendo i debiti, no? E in questo modo la redditività delle società sia finanziarie e non degli Stati Uniti e dell'Europa è aumentata tantissimo, ma abbiamo visto le conseguenze. Ogni 5 anni c'è una bolla con il rischio di trascinare in recessione l'economia. Grazie a Walter Riolfi, collega del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. A lui buon pomeriggio, buon lavoro e anche buon anno. Buon anno a tutti. Noi ci fermiamo per qualche istante, il meteo, ma restate con noi. Sono le 17:37 minuti, abbiamo parlato dell'anno di borsa che è stato, degli ultimi 10 anni, abbiamo cercato di fare un po' il punto. Nella nostra scheda si raccontava anche delle matricole di quest'anno a Piazza Affari, sono state 10, l'ultima a quotarsi è stata First Capital Investment Company, quotata sul listino AIM, che è il listino dedicato alle piccole e medie imprese, che affianca il MAC, società di private equity. First Capital ha un capitale sociale di circa 10 milioni di euro e concentra i suoi investimenti su società italiane di piccola e media capitalizzazione. Livia Zancanera ha chiesto all'amministratore delegato Paolo La Pietra le ragioni della decisione di quotarsi. Innanzitutto perché noi crediamo nel mercato, crediamo nella trasparenza, crediamo nella validità del alcune, non dico del sistema Italia forse, ma sicuramente nel Made in Italy, in alcune imprese italiane di eccellenza di cui vi sono molti esponenti quotati. Quindi questa è assolutamente una fiducia assoluta, siamo italiani, siamo orgogliosi e siamo orgogliosi anche noi di partecipare al fenomeno del Made in Italy. Questo da un punto di vista del perché. Da un punto di vista della quotazione ci attendiamo, come ho spiegato, questa è una quotazione all'AIM Italia in cui abbiamo raggiunto il record di raccolta finora rispetto alle altre precedenti quotazioni. Noi ci aspettiamo di raggiungere la dimensione minima per accedere al mercato principale. Questa forse più che un auspicio è una promessa. Voi state investendo molto, visto, nelle società quotate. Quali sono i vostri target a livello di settori o comunque di capitalizzazione delle società o di dimensioni? Il nostro mercato è rappresentato solo da società quotate, con, intendiamo, medium small caps, cioè con una capitalizzazione di borsa inferiore ai 350 milioni di euro. Nel panorama del mercato italiano questi in termini numerici sono circa il 60%, 175 società più o meno. È chiaro che di queste 175, quelle che noi monitoriamo sono non più di 40. Quelle in cui andremo a investire, attualmente siamo investiti in 5 società, a regime con i mezzi freschi ricavati all'UPEO investiremo in massimo 10-12. Oltre impossibile, perché a nostro parere si perde la differenza tra l'investire tra virgolette in borsa e investire tra virgolette nelle imprese e negli imprenditori, e quindi non c'è più la possibilità di esercitare un controllo e un dialogo con le stesse. Sicuramente ha influito anche il fatto che di matricole ce ne siano state poche, l'anno nero, insomma, comunque un anno non buono per Piazza Affari, che si chiude con una giornata con il segno meno. Ne parliamo con Guido Maurino, collega di Radiocor. Buon pomeriggio Guido. Buon pomeriggio a voi. E allora, velocemente, rapidissimamente, sui mercati: Parigi, meno 1,03%, Francoforte, che ricordiamo oggi metà seduta, chiuso poco dopo l'ora di pranzo, meno 1,16%, e Londra, meno 0,39%, Milano, FTSE All Share, meno 1,33%, FTSE MIB, meno 1,45%, e sì che le prime battute di questa mattina lo davano in un timido rialzo, almeno per Piazza Affari. Sì, poi le borse hanno subito così a metà mattina virato in negativo. Diciamo che hanno pesato da un lato un po' le incertezze che hanno penalizzato ancora i titoli bancari e finanziari, dall'altro c'erano anche fattori tecnici legati alle scadenze di fine anno, per cui molti operatori hanno preferito prendere beneficio e chiudere le posizioni, visto che oggi appunto è anche l'ultima seduta dell'anno. Allora Guido, andiamo subito sul listino principale, anche perché qualcuno ci ha chiesto che cosa succede al titolo Fiat, oggi più 2,94%, il miglior titolo del listino. Dobbiamo comunque precisare che i titoli che hanno chiuso la seduta in positivo sono stati davvero pochi, e che da lunedì succederà qualcosa di, diciamo, importante per quanto riguarda Fiat. Sì, da lunedì non avremo più il titolo Fiat, ma avremo due titoli diversi. Da un lato ci sarà la Fiat SPA e poi ci sarà Fiat Industrial, che comprenderà tutte quelle attività che non sono auto. Il mercato si domandava un pochettino quali sarebbero state le due quotazioni dei due diversi titoli. Oggi sono uscite alcune prime stime che indicano appunto per Fiat SPA, quindi per intenderci diciamo l'auto, dovrebbe avere il titolo una quotazione attorno ai 7,6 euro, mentre per Fiat Industrial la media degli analisti parla di 9,2 euro. Sommati i due valori fanno 16,8, che è un valore superiore rispetto alle quotazioni attuali, ferme a 15,43%. Sostanzialmente si scommette che dividendo Fiat in due il valore sia più alto rispetto a quello di avere il titolo Fiat unico come abbiamo oggi. Bene anche STM, che approfitta di un report positivo di UBS. Sì, gli analisti della banca svizzera hanno alzato il target price del titolo da 6,3 a 8 euro e hanno confermato il giudizio neutral, perché hanno rivisto a rialzo le stime di fatturato per il periodo 2011-2012, alzandole del 4,5%. Oggi il titolo su questo report ha guadagnato lo 0,64%. Bene anche Finmeccanica, più 0,89%, una bella distanza tra il primo e il secondo titolo. Fiat che guadagna quasi 3 punti, Finmeccanica lo 0,89%. Sì, anche Finmeccanica ha approfittato diciamo di notizie positive, e di ieri l'annuncio di nuove commesse per 185 milioni di euro attraverso varie controllate, DRS Technologies, Alenia Aeronautica, Ottomelara, Selex Communication, una serie di nuove commesse di fine anno che oggi hanno consentito al titolo di essere fra i pochi a chiudere in terreno positivo. Guido, ti chiedo qualche istante di pazienza, noi diamo la linea alla viabilità, ci sentiamo tra pochissimo. Focus Economia. Le 17:45 minuti, stiamo analizzando la giornata di borsa, l'ultima giornata di borsa, e allora andiamo a vedere invece tra quelli che oggi non se la sono passata poi tanto bene, Italcementi -3,07%. Dicevo che sui Italcementi hanno pesato anche alcune prese di beneficio, considerando che nel mese di dicembre il titolo ha guadagnato oltre il 20%. Gli operatori continuano a guardare a una fusione con la controllata Siemens Francais, dopo che appunto venerdì la società ha già iniziato ad accorciare parzialmente la catena di controllo che la collega alla società francese. Sull'onda di queste notizie il titolo aveva guadagnato bene nei giorni scorsi, oggi un po' di prese di beneficio in qualche modo fisiologiche. E scivola sul finale Unicredit, -3,13%, è il peggior titolo in assoluto oggi. Non ci sono ragioni particolari, oggi è stato tutto il settore bancario e anche quello finanziario, assicurativo ad andare male, gli operatori ritengono che questi titoli restino penalizzati da un ritorno dell'avversione al rischio sui mercati, oggi sono andati male un po' in tutta Europa, Unicredit ha perso il 3,13%, ma se guardiamo anche Fonsai ha ceduto il 2,79%, Intesa San Paolo il 2,29%. Male anche Telecom Italia. Male anche Telecom Italia, che ha risentito di una giornata negativa sul fronte dei titoli telefonici europei. Il titolo, fra l'altro, nei giorni scorsi si era leggermente avvantaggiato sulle attese per la cessione della partecipazione del 27% nella compagnia telefonica cubana, e invece oggi si è mossa a rimorchio, diciamo, del settore telefonico e ha chiuso in calo del 2,32%. Guido, qualche ascoltatore ci chiede di Eni, oggi cede 1,5 punti, ci scrivono in particolare il petrolio va su e invece Eni cala sempre. Ecco, tra l'altro oggi il petrolio ha aperto in calo, anche se comunque si per il secondo giorno mi fa segno, no, $2, mi fa segno la collega Sissi Bellomo, che nel frattempo mi ha raggiunto in studio e con cui tra poco parleremo di materie prime. Comunque sì, Eni va giù 1,5 punti. Sì, Eni va giù, è vero che, cioè, se guardiamo in fondo si è mossa semplicemente in linea col FTSE MIB, diciamo che è una giornata che è stata negativa un po' per tutti i titoli e non ha risparmiato nessuno, perché anche altri titoli energetici che abitualmente si muovono, diciamo, in linea con gli andamenti del petrolio sono andati male. Saipem ha ceduto lo 0,94%, Tenaris l'1,13%, Eni, come ricordavi tu, l'1,45%, per cui insomma è un po' la giornata che è andata oltre alle ragioni legate al rialzo del prezzo del petrolio. L'ultima domanda, Guido, se sul completo ci sono degli spunti particolari di cui ci vuoi fare partecipi. Ah, guarda, nessuno spunto particolare, oggi si è mosso molto bene Mondo Home Entertainment, che continua, insomma, i buoni spunti degli ultimi giorni per un miglioramento della posizione finanziaria netta. Bene anche Premuda, +6,46%, il Sole 24 ore +6,38%, e Zucchi +4,99%. Invece è stata una giornata negativa, diciamo, per la Lazio -6,28% e per il fondo Cape, che ha ceduto il 5,63%. Bene, mi spiace, anche se non troppo, per la Lazio, ma questo non dovrei dirlo essendo di fede calcistica avversaria. Grazie a Guido Maurino per essere stato con noi, a lui buon lavoro, buona serata, buon anno. Buon anno a voi. E noi, come vi anticipavo poc'anzi, adesso parliamo di materie prime. Lo facciamo con la collega del Sole 24 Ore, che vi ho semi preannunciato, Sissi Bellomo, che ci ha raggiunto. Buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, mi sono intromessa troppo presto. Vabbè, ma tu sei di casa qui, essendo proveniente da questa redazione e poi emigrata al piano di sopra, puoi venire quando vuoi e puoi interrompere quando vuoi. Anche perché vieni a parlarci di una materia, che appunto le materie prime, che non solo quest'anno, non solo negli ultimi 10 anni, ma insomma avranno fatto pur ricco qualcuno. visto l'andamento. Avranno fatto ricco qualcuno, avranno fatto più poveri tanti imprenditori costretti ad approvvigionarsi a costi crescenti, ahimè. Allora, facciamo qualche numero anche qui. Nel 2010 il petrolio è cresciuto del 23% circa, poi non siamo proprio aggiornatissimi sì, sull'ultima oggi giornata. Oggi stava perdendo un paio di dollari. Ma insomma, l'oro però... più 30%, l'argento più 74%. Insomma, sono delle percentuali di tutto rispetto. E se poi andiamo a vedere nel decennio, il petrolio più 333%, l'oro il 417%, il rame il 420%. Bisogna anche vedere se in termini reali o nominali. Comunque sia, è vero, è senz'altro vero. Più che di decennio parlerei della seconda metà del decennio, dal 2004-2005 in avanti, che è emerso inaspettato per la maggior parte degli economisti e degli osservatori il fenomeno della Cina. La Cina che ha incominciato a divorare quantità crescenti di materie prime con dei ritmi che nessuno aveva sospettato potessero essere così veloci e che hanno preso in contropiede molte persone sui mercati questo qualche anno fa. Adesso non è più una novità per nessuno, però questi consumi ci sono destinati a restare, sono destinati a crescere, perché man mano che la popolazione cinese, ma anche quella indiana, raggiungerà un livello, e glielo auguriamo, un livello di, certo, di vita e di benessere simile a quello dei paesi sviluppati, delle economie mature, è inevitabile che sia così. Poi ci sono tanti altri fattori che trainano le materie prime, e non ultima la liquidità immensa che c'è sui mercati e che continua ad aumentare con la seconda fase del quantitative easing della Federal Reserve, sì, che, infatti ne parlavamo, che ha dato una svolta ai prezzi delle materie prime quest'anno, netta. Quando è stata annunciata questa seconda fase ad agosto, lì è partita una forte ripresa dei prezzi delle materie prime e dei metalli preziosi in particolare. Meglio i metalli preziosi che le azioni? Assolutamente sì. Meglio le materie prime delle azioni. Adesso insomma c'è ancora qualche ora di contrattazione prima della fine del 2010, ma le prime statistiche dicono che gli indici di materie prime, gli indici che riassumono l'andamento di un paniere, avranno un rialzo del 20% o qualcosa in più, contro circa il 10% dell'indice che riassume l'andamento dei listini azionari globali. Sì. E del 5% erotti per l'indice dei treasuries elaborato da Merrill Lynch. Quindi anche per il prossimo anno possiamo attenderci prezzi in diciamo, senza avere anche qui la palla di vetro, non ce l'abbiamo, quindi non sappiamo, potrebbe succedere di tutto di più, come potrebbe non succedere nulla, però... Ci sono forti elementi di rischio, ritengo, anche se poi la maggior parte degli analisti prevede che questo rally continui, che continuerà anche nei primi mesi dell'anno. Ci sono degli elementi di rischio importanti, però, primo fra tutti, un'altra volta, la Cina. La Cina sta facendo un'azione molto incisiva di stretta monetaria e di controllo della crescita dell'economia. Se ci fosse una frenata cinese o anche non eccessiva, ma se queste misure avessero un impatto in qualche modo sulla produzione industriale, sui consumi, allora questo sarebbe un elemento sicuramente ribassista. Ci sono molte incertezze, tu forse l'hai sentito meglio più di me dagli analisti, anche sull'andamento dei mercati valutari. Sì. Un rafforzamento del dollaro che molti prevedono essere anche forse netto e potrebbe essere dannoso per le performance delle materie prime. D'altronde, sull'altro piatto della bilancia c'è anche qualcuno che ricorda che l'ultima volta che Stati Uniti e Cina crebbero insieme al massimo della loro potenzialità nel 2008, all'inizio del 2008, prima della crisi scatenata dalla caduta di Lehman Brothers, quello fu micidiale per i prezzi delle materie prime. Secondo qualche osservatore, ovviamente nell'anno che si sta per chiudere non facciamo un discorso che è più ampio, perché ovviamente lì ci sono tutti i paesi emergenti che giustamente hanno cominciato a consumano molto. C'è chi paventa che forse malignamente che alcuni prezzi, soprattutto dei metalli preziosi, vengano tenuti alti dalle banche che hanno molti... Sì, questo soprattutto per l'argento, questo è un tema ricorrente ormai da anni. Per l'argento e non per l'oro, perché il mercato dell'argento è molto più sottile, come si dice in gergo finanziario, insomma è più ristretto, è più facile da controllare, C'è anche un'inchiesta aperta da parte della SEC, se non ricordo male, o di qualche altra autorità americana di controllo dei mercati finanziari, a carico di JP Morgan e di HSBC, anche qui salvo, non vorrei essere smentita perché non so se ricordo esattamente, comunque sia, che sono sospettate di averlo in qualche modo manipolato. Però sono discorsi, come ti dicevo, molto ricorrenti negli anni. C'è da dire che le materie prime, i metalli preziosi, loro, in un momento in cui c'è grossa incertezza sugli andamenti delle valute, in cui le politiche monetarie nel mondo occidentale sono ancora così lasche, recuperano il loro valore di valuta. Certo. Di valuta in offerta limitata. Mentre l'euro e soprattutto il dollaro. Tutt'altro che limitata come offerta ultimamente. Certo, no, assolutamente. Noi abbiamo parlato ovviamente dell'oro, dell'argento, del rame, perché sono quelle che sentiamo di più, che magari ci vengono anche prima in mente pensando alle materie prime. Poi però ci sono anche appunto il caffè, e poi il grano, e poi insomma sono tutte cose che magari uno lì per lì no. Diciamo il comune cittadino non ci pensa subito, però sono materie prime quasi tutte. E poi lo sentiamo al supermercato, sì, sono esatto. Massimi pluriennali per moltissime materie prime. Non ne parliamo per il prossimo anno, perché ieri ne parlavamo con i consumatori, previsti aumenti intorno ai 200 euro nel carrello della spesa. Eh sì, perché si trasmettono con un certo ritardo poi nella filiera questi aumenti. No, sono aumenti fortissimi, in parte dovuti sicuramente a fenomeni speculativi, a questo flusso di denaro che c'è sulle commodities, al fatto che c'è chi crede molto, chi punta molto tra gli investitori sulle materie prime agricole. Però anche qui abbiamo avuto un evento assolutamente dirompente sui mercati, che è un evento climatico. C'è quest'anno un fenomeno meteorologico noto come La Niña, che segue il Niño, che quest'anno è stata particolarmente cattiva, ha creato una stagione dei monsoni lunghissima in moltissimi paesi asiatici che sono forti produttori di materie prime, e viceversa ha creato grandissima siccità, ha favorito un'enorme siccità per esempio l'estate scorsa in Russia, che ha fatto crollare i raccolti di grano nell'America Latina, dove ci sono preoccupazioni per la soia. Insomma, morale della favola, abbiamo il caffè arabica, come dicevi, ai massimi da 13 anni, lo zucchero ai massimi da sempre, da almeno 30 anni, tutti i cereali, semi di soia, semi oleosi ai massimi da un paio d'anni. Purtroppo chiudiamo l'anno con rincari, questi sì che sentirà anche la signora che fa la spesa al supermercato. La spesa, anche se non pensa al caffè come materia prima, ma se ne accorgerà quando tutti poi. Il caffè. Sì, più o meno lo beviamo tutti, e comunque anche lì si ripercuoteranno tutti questi aumenti, purtroppo, ai noi, e non saranno gli unici, perché abbiamo visto ieri che non saranno gli unici questi alimentari. Grazie a Sissi Bellamo per essere stata con noi, anche lei buon lavoro, che so che lavorerà come tutti noi, però del resto domani noio. Sei in buona compagnia però anche nei prossimi giorni, e buon anno. Grazie. Velocemente, prima di dare la linea al GR, una rapida carrellata sui listini ormai chiusi. Parigi ha ceduto poco più di un punto percentuale, Francoforte l'1,16%, Londra lo 0,42%. A Milano il FTSE MIB ha ceduto l'1,45%, il FTSE All Share l'1,33%. Gli indici statunitensi, il Dow Jones cede uno 0,24%, il Nasdaq sta cedendo uno 0,35%, quindi si stanno leggermente appesantendo rispetto a qualche minuto fa. Adesso noi ci fermiamo, diamo la linea al GR e torniamo subito dopo. Sono le 18:08, seconda parte di Focus Economia. Alcune piccole notizie sono arrivate mentre noi eravamo in onda. Allora, vi racconto quale altra novità c'è dal punto di vista economico. Ad esempio, per i dipendenti di Goldman Sachs la stagione dei bonus 2010 potrebbe rivelarsi all'insegna dell'austerity. Credit Suisse ritiene infatti che i bonus distribuiti si attesteranno, questo è quanto riporta il Wall Street Journal, al 40,4% dei ricavi, ovvero il secondo livello più basso da quando Goldman Sachs è sbarcata in borsa, e questo riflette una maggiore disciplina e l'impatto delle nuove assunzioni nell'ultimo anno. Per Morgan Stanley, Credit Suisse stima che i compensi saranno al 51,5% dei ricavi, in calo dal 61,2% dell'anno scorso. E poi, nel 2010 l'aumento dei prezzi dei carburanti ha fatto spendere alle famiglie italiane 4,81 miliardi di euro in più per fare il pieno alla macchina. A beneficiarne è stato anche l'erario, che ha incassato 528 milioni in più rispetto all'anno scorso. La stangata al distributore è stata calcolata da Federconsumatori Adusbef ed è appena mitigata dal fatto che le due associazioni non tengono conto del calo delle vendite, pari al 5,9% per la benzina e allo 0,4% per il gasolio nei primi 11 mesi dell'anno. E poi ancora, il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani ha convocato per il 4 gennaio 2011 Giancarlo Giannini, che è presidente dell'ISVAP, e Fabio Cerchiai, presidente dell'ANIA, per approfondire le proposte presentate e verificarle rispetto alle azioni portate avanti dal Ministero per contenere il costo delle tariffe e rendere più efficiente il settore assicurativo. Ricordiamo che di ieri la notizia secondo la quale l'ISVAP avrebbe messo a punto un piano riassunto in una lettera inviata al governo per contenere i costi dell'RC auto tra il 15 e il 18%, ovviamente è indicativa questa cifra, questo lasso tra il 15 e il 18%, bisognerebbe poi vedere se tutto ciò è possibile, sia possibile in pratica sulle polizze. Adesso noi ci occupiamo di un altro tema, torniamo a Pomigliano per capire il giorno dopo le reazioni politiche ma anche i contenuti dell'accordo. Come era facile immaginare, la firma del contratto per Pomigliano, per i 4.600 dipendenti dello stabilimento Fiat di Pomigliano, ha creato polemiche sia dal punto di vista politico, ma ha alimentato ulteriormente il dibattito che è nato nel momento in cui la Fiat ha deciso di uscire temporaneamente dalla Confindustria per dar vita a un nuovo contratto. E allora, la Confindustria è pronta a fare un nuovo accordo con CGIL e CISL e UIL sulla rappresentanza. Questo è quanto annunciato in un'intervista a Repubblica il vicepresidente Antonio Bombassei, confermando la disponibilità degli industriali ad aggiornare le regole del gioco dopo le due newco fuori da Confindustria create da Sergio Marchionne, e sottolineando che da anni Confindustria aspetta una proposta unitaria dei sindacati. Un fatto tecnico per Bombassei, cui pare legittimo che, dando vita a due nuove società, non si vogliano portare dentro una serie di vecchie regole e di orpelli che hanno fatto il loro tempo. Un accordo, sottolinea anche il direttore generale di Confindustria Giampaolo Galli sulle colonne del Sole 24 Ore, innovativo perché è in azienda che si può verificare lo scambio tra produttività e salario. L'Italia però continua a perdere competitività, per cui Galli fa appello al sindacato affinché sia in grado di raccogliere la sfida. Sul contratto è intervenuto anche il ministro Sacconi. Credo che questo accordo sia stato realizzato nel segno di una ideologia, ma non nel segno di una ideologia, ma del pragmatismo, e questo esprime la modernità del sindacato. Lo ha detto il ministro del lavoro Sacconi parlando dell'accordo sul nuovo contratto per la Fiat di Pomigliano nel corso della trasmissione Radio Anch'io su Radio 1. Il ministro ha anche definito sciocca la critica che arriva dall'opposizione, che si punti a dividere il sindacato, auspicando invece un sindacato unito. Il segretario del PD, Pierluigi Bersani: gli investimenti della Fiat sono prioritari, ma lo strappo sui diritti sindacali è ingiustificabile, pericoloso e va corretto. Così in un colloquio con il Messaggero. Bersani sottolinea come sia superficiale parlare di un partito diviso. La posizione del partito è forte e unitaria e riconosce l'importanza dell'investimento del Lingotto, prezioso per i territori interessati, per il nostro futuro industriale, per i redditi dei lavoratori. Ma i diritti vanno salvaguardati. La scelta al referendum, chiarisce, spetta ai lavoratori, anche perché costerà loro sacrifici. Il PD non farà il sindacato. Intervistato poi da Sky, il leader del PD ha negato che ci siano divisioni all'interno del partito sulla valutazione degli accordi di Pomigliano e Mirafiori. Sentiamolo. Noi abbiamo una posizione molto chiara e la sosteniamo tutti. Allora, primo punto, la questione produttiva. l'investimento e la nuova organizzazione del lavoro. Benissimo, su questi i lavoratori si pronunceranno, quelli che stanno alla catena di montaggio, rispetteremo le loro decisioni, ma noi ci auguriamo che l'investimento venga confermato, perché è molto importante per Torino e per l'Italia. Secondo, quell'accordo contiene una cosa che non va e che riguarda la rappresentanza. Per noi non è giusto che chi dissente venga tagliato fuori dai diritti sindacali. Chi dissente non può impedire, ok, ma non può essere buttato fuori dai diritti sindacali. Quindi su questo punto bisogna rimontare. Bisogna che le grandi forze sociali riprendano il filo di un accordo sulla rappresentanza e la rappresentatività, e credo che il governo dovrebbe favorire questo percorso. Voglio sapere cosa pensa il governo di questi meccanismi di partecipazione, perché attenzione che se non correggiamo questo andamento c'è una palla di neve che può diventare una valanga e consegnarci una situazione assolutamente frantumata nel paese, una cosa che non serve a nessuno. Ma al di là delle diverse valutazioni, quali sono i contenuti dell'accordo? Lo sentiamo in questa scheda. Anticipati, contestati, apprezzati, discussi, approvati con referendum. I contenuti dell'accordo per lo stabilimento campano di Pomigliano sono ora una realtà descritta nero su bianco nel documento definitivo siglato ieri. Con il via libera al nuovo contratto arrivano i 700 milioni che la Fiat investirà per ammodernare la fabbrica e trasferire qui la produzione della Panda, attualmente realizzata in Polonia. A tal fine la produttività dovrà alzarsi vertiginosamente e le auto fabbricate passare da 78 a 270.000. Un passo importante per provare ad aumentare la produzione complessiva di auto in Italia, oggi la più bassa d'Europa ad eccezione della sola Slovacchia. I 4.600 operai di Pomigliano, al momento in cassa integrazione straordinaria, verranno gradualmente riassunti con il nuovo contratto. Ecco le nuove condizioni che troveranno sul posto di lavoro. La durata complessiva delle pause diminuisce. Al posto di 2 da 20 minuti ce ne saranno 3 da 10 minuti. I turni passeranno da 10 a 18 a settimana. Dai 2 turni giornalieri per 5 giorni in precedenza si sale infatti a 3 al giorno per 6 giorni. Condizioni di lavoro più impegnative porteranno benefici in busta paga per circa 30 euro lordi al mese, ossia circa 20 euro netti. In alcuni casi il ritorno economico è però maggiore e arriva fino a 100 euro lordi. Incrementi di salario ben più consistenti potranno esserci in caso di boom produttivo e richiesta di straordinari che, su decisione dell'azienda, potranno arrivare fino a 120 ore l'anno, il triplo rispetto a quanto previsto finora. È previsto inoltre un giro di vite sull'assenteismo. In caso di situazioni anomale valutate da una apposita commissione con rappresentanti di Fiat e sindacati, l'azienda potrà riservarsi di non pagare i primi 3 giorni. Tra gli aspetti più discussi e criticati, le norme che riguardano gli scioperi, che non potranno essere proclamati quando l'azienda comanda straordinari per soddisfare punte di mercato o recuperi produttivi. Sono previste sanzioni più severe per i comportamenti che violano i termini dell'accordo e, come per Mirafiori, non avendo sottoscritto l'accordo, la FIOM non avrà rappresentanza in azienda. Diamo la linea alla viabilità, ci risentiamo tra pochissimo. Le 18 e 19 minuti circa, tra qualche secondo, ultima parte di Focus Economia, noi parliamo di Fincantieri. Ne parliamo perché in partnership con Lockheed Martin, numero uno al mondo del settore della difesa, la Fincantieri si è aggiudicata un contratto per la costruzione di 10 navi Littoral Combat Ship. Siamo in collegamento telefonico con il dottor Giuseppe Bono, amministratore delegato della Fincantieri. Buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, dottor Bono, sicuramente una buona operazione, anzi un'ottima operazione che chiude un anno che è stato difficile, ma non solo per Fincantieri, è stato difficile in generale per l'impresa italiana. Io difatti nel nostro comunicato ho voluto accennare anche a questo, che questa operazione sia un po' da stimolo per suscitare quell'orgoglio, quell'entusiasmo di cui l'impresa italiana ha bisogno per uscire dalla crisi. Quindi questo è il mio augurio, per noi sarà così. Senta, dottor Bono, entriamo un po' più nel dettaglio. Questo contratto per la costruzione di queste 10 navi, il valore della prima unità è di 437 milioni di dollari, che però lieviteranno e non poco. Eh sì, il contratto globale da qui al 2015, quindi praticamente in 5 anni, supererà i 4 miliardi di dollari. Quindi è un grosso contratto, ma sappiamo che i numeri della difesa americana non hanno comparazione con quelli italiani. Pensiamo che questo tipo di navi ne sono previste in costruzione 55 nella partita 2020, quindi diciamo che i nostri cantieri possono respirare per un lungo periodo. Per quanto riguarda la costruzione, sappiamo che avverrà nei vostri cantieri americani, però una parte almeno della componentistica poi verrà anche dal nostro paese. Noi quando abbiamo comprato questi cantieri 2 anni fa, l'abbiamo comprati con l'obiettivo di prendere questa grande commessa, alla quale peraltro avevamo lavorato, perché questa nave è veramente non pusulca per quanto riguarda le navi militari di medie dimensioni, è derivato dalla carena di una nostra costruzione che sta al destiero, che ha ancora il record per la traversata atlantica, il nastro azzurro. E quindi quando l'abbiamo preso con questo obiettivo. Si sa che negli Stati Uniti e quasi in tutti gli altri paesi i contratti militari bisogna svolgerli nei paesi stessi, quindi adoperando cantieri locali, però possiamo dare una componentistica importante. Noi abbiamo una divisione componentistica che è all'avanguardia, e quindi insomma una parte del lavoro insomma arriverà anche dall'Italia, ecco. Quindi in questo modo ovviamente si ottengono due risultati, ovviamente l'ottimo contratto per Fincantieri e anche il far lavorare quelle che sono le aziende italiane. Ecco, ma poi certo, ma poi ci aspettiamo molto di più, perché certamente questa il fatto di essere in qualche modo fornitori della difesa americana, della marina americana, credo che dia a Fincantieri e in tutto il mondo una patente di essere un'industria estremamente affidabile e di primo livello, insomma. Quindi credo che questo ci aprirà nuovi mercati. Senta, dottor Bono, oggi lei ha dato un'intervista sul Piccolo di Trieste in cui si è un po' lamentato. In questo paese fa un po' poco per mantenere le grandi imprese e quelle poche che ci sono rimaste, aggiungerei io, per mantenerle qui e per farle lavorare bene. Io più che lamentarmi, perché non sono abituato a lamentarmi, anzi, ma costano, è la verità. Sostanzialmente io penso che noi siamo un paese molto provinciale, dove riflettevo 2 minuti fa su un fatto, e noi ci dividiamo esattamente in tutte le occasioni a metà, ma poi non basta dividersi a metà, poi ci dividiamo a metà della metà, a metà della metà, a metà della metà, fino alla fine. È in tutto. Cioè, la cosa che mi ha fatto scattare questo pensiero è il fatto che a Lecce non si giochi la partita, a Lecce Bar si deve giocare senza il pubblico, ma anche nello sport, dico io. Allora, se non recuperiamo, e qui io faccio un appello a tutte, diciamo, le persone che hanno responsabilità nel paese, poi pensiamo tutti quanti di dire la nostra per superare uno stato di dialettica che poi non ci porta da nessuna parte, e che quindi non ci concentriamo tutti quanti a risolvere i problemi che abbiamo davanti. Io credo che ovviamente poi a lungo andare poi il declino ci sarà, insomma, non avrei dubbi su questo. Lei fa un appello, lei giustamente diceva a tutte le parti, a tutti quelli che sono i protagonisti, quindi fa un appello alla politica, ma anche alle parti sociali, sindacati. A tutti quelli, ai media, perché anche i media, i giornali, le televisioni, anche questi hanno una grossa responsabilità. e non sempre ci aiutano i lettori o i telespettatori a ragionare sui fatti concreti. Prevale più, come dire, la contrapposizione quasi personalistica, fa più notizia, una contrapposizione piuttosto che una riflessione. Senta, dottor Bono, per quanto riguarda l'anno prossimo, quindi guardiamo al futuro, e per tornare anche a voi, questa è una grossa commessa per quanto riguarda la cantieristica militare. Le navi da crociera però stanno attraversando ancora un momento di crisi. Che cosa si aspetta lei? Come guarda lei al prossimo anno? Ah, io guardo con ottimismo da una parte e con prudenza dall'altra. Ottimismo perché, dico, prima o poi la crisi deve comunque finire, che è una crisi anche finanziaria che non agevola gli investimenti delle società armatrici. Con prudenza perché indubbiamente anche le società armatrici avranno un atteggiamento prudente per quanto riguarda i nuovi ordini. Quindi ci sarà probabilmente una ripresa di nuovi ordini, ma ad un livello certamente molto inferiore rispetto al passato. Quindi se pensiamo nel 2007-2008 abbiamo avuto in tutto il mondo ordine per 15-16 navi da crociera, noi ci aspettiamo che all'anno adesso, per i prossimi 2 anni, non supereranno le 6 unità. E questo pone dei problemi di competitività estremamente importanti negli altri paesi. Quindi anche qui lo sforzo deve essere collettivo se vogliamo mantenere la nostra leadership nel mondo. Certo, quindi lei immagina che tra 3 anni si possa uscire, si possa tornare a quelli che erano i livelli del 2007-2008? E questo non lo so, sicuramente saremo, come dire, in un momento più favorevole, almeno questa è la previsione e la speranza. Che si possa tornare ai livelli precedenti è un po' complicato. Io penso che comunque questa crisi cambierà il mondo e che se non lo avvertiamo per tempo noi rischiamo di essere un po' indietro. Quindi anche noi ci dobbiamo, come azienda, ci stiamo cercando di attrezzare per essere comunque protagonisti in un mercato che comunque sarà molto più competitivo e diverso probabilmente. Certo, sicuramente diverso, ma come tutto del resto dopo questa crisi. Come tutto. Grazie a Giuseppe Bono, amministratore delegato della Fincantieri, a lui grazie per essere stato con noi, buona serata e buon anno. Buona serata anche a voi e buon anno a tutti. Le 18:27 minuti, ultimi secondi insieme, Alessio Maurizi, tra poco la Zanzara, questa sera la penultima dell'anno. La penultima dell'anno, e stasera non possiamo non farlo, bilanci, è tempo di bilanci naturalmente, anche di prospettive per l'anno prossimo, questo sì, più ben augurante per l'anno prossimo, però insomma, cerchiamo anche noi di vedere com'è andata quest'anno. Il personaggio dell'anno, Berlusconi, Fini, Vendola, Saviano, La Gelmini, Marchionne, Mourinho, Leonardo, Cassano, se vogliamo stare allo sport, insomma di nomi ce ne sono parecchi. Io vorrei che gli ascoltatori chiamassero come ogni sera per dire a loro, oltre naturalmente gli spunti di attualità, 800 24 0024, il personaggio dell'anno. Grazie ad Alessio Maurizi, tra pochissimo con la Zanzara. Allora, domani appuntamento speciale con Focus Economia per ripercorrere gli eventi principali di questo anno. Io ringrazio in regia Paolo Corleoni, in redazione Mauro Del Corno, a tutti voi l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.